Bello sto pezzo. Be on your guard and take it. notte e di giorno la musica mi gira intorno. vino tutto. E noi adesso? Se noi adesso... Poi... Noi poi... Adesso? Noi adesso? Poi... Chi si ferma è cornuto. incrociato le dita a una mia cara amica. Non voleva baciarmi, ma ora è pentita. Senti il peggiore di tutti. Gira con amici più brutti. Gira con amici più brutti. We'll be right back. programmino è finito, leccatevi il dito.